più difficile seccar la fuente inagotabile dell'amor, contar la storia di un momento de placer, reir alegre quando siente il corazón un gran dolor. Qué bonito es que tras la lluvia del verano salga el sol y el pavimento aquí brille de charol, que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí. Qué grande es sentir mi corazón latir así, henchido de emoción, poder oír tu dulce voz, besarte con pasión y acariciarte y no perder ni un solo instante de ser para ti un gran amor. Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón. Besarte con pasión y acariciarte y no perder ni un solo instante de ser para ti un gran amor. Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Your heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. Year after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and hand in hand. find love's promised land, there'll be no one but you for me. Como lume cori, l'anima chianci addolorata, un sì da pace chi sta in amala nottata. Giuscio la terra mia e brucia lume cori, i siti d'acqua i tra io siti d'amore, a cura canto la me canzoni, si un cenuggio casa faccia lo parconi. Lo tempo passa, ma una giorna non c'è mai soli, si già un torna. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Un jour-là, quand le vent a tourné, un jour-là, ton amour t'a quitté, tes yeux-là, revois toujours ce train, ce dernier train. Partant vers le chagrin, le ciel était couvert de neige. Au loin, déjà l'horizon brûle. Cette chanson que chantaient les soldats. Cette si bonne serait entre tes bras. Tormento eppure pace, inferno e paradiso d'ogni cuor. Sì, questo amore splendido come il sole, più del sole tutti ci sound I ever heard. Maria, Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. I just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. Maria, I'll never stop saying Maria. The most beautiful sound I ever heard. Thank you. mancherà la tua serenità, le tue parole come canzoni al vento e l'amore che ora porti via. Mi mancherà se te ne vai, ora e per sempre non so come vivrei, e l'allegria, amica mia, va via con te. Mi mancherai, mi mancherai, perché vai via, perché l'amore in te si è spento, perché, perché non cambierà niente, lo so, e dentro sento che Radio AQP, con música fácil de escuchar. Era dentro te soltanto un sogno, ma presto il sogno sarà realtà. Ora crescerà la tua passione, tra mille sfide ti guiderà, credi in te. resti puro nell'anima, e anche quando avrai qualche incertezza, sarai il coraggio a decidere. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvidéis, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jugar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún tingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su tua boca che besa, borra la tristezza, calma l'amargura. Or una cabeza, si ella me olvida, che importa perderme mil veces la vida, para che vivir? A perderme mil veces la vida. ¿Para qué vivir? Vai, sorridi amore, vai, hai negli occhi miei. Vai con questa mia canzone, intrisa di emozione, il mondo aspetta il tuo sorriso, vai. Blu, il cielo è ancora blu. Coloralo di più. Vai in questa confusione, milioni di persone, il mondo è vuoto se non ci sei tu. Vai, sei bello come un re. Sì, bello come il ritornello di questa canzone che io canto per te. Ma si nasconde anche il dolore nel dolcissimo rumore della vita intorno a te. Fai la tua strada fra la gente, falla innamoratamente come quando eri con me. E allora vai, sorridi amore, vai, ancora blu, tu coloralo di più. Vai con questa mia canzone, che è intrisa di emozione, infonde al mondo la felicità. Ah, sei bello come un re. Ciao, sorridi e prendi il volo, se un dì sarai solo, io sarò qui per te. Ciao, sorridi e prendi il volo, e se un dì sarai solo, io sarò qui per te. Each sensation, darkness stirs and wakes. mixed imagination. Silently the senses abandon their defenses. Slowly, gently, night unfurls its splendor. Grasp it, sense it, tremulous and tender. Turn your face away from the garish light of day. Turn your thoughts away from cold unfeeling light. And listen to the music of the night. Close your eyes and surrender to your darkest dreams. Purge your thoughts of the life you knew before. Close your eyes, let your spirit start to intoxication. Touch me, trust me, savor each sensation. Let the dream begin, let your darker side give in to the power of the music that I write. The power of the music of the night. Open up your mind, let your fantasies unwind. You and I can song take flight. Help me make the music of the Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. E più ti penso, e più mi manchi, ti vedo. Stare lì con te. sconsolato come non son stato mai senza te. Tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris. Siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol, busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que querrás compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico. Mas no te alejes, te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo

where we all work, along the Mississippi. Here we all work while the white folk play, pulling them boats from the dawn till sunset, getting no rest till the judgment day. Don't look up and don't look down. You don't dare make the white boss frown. Bend your knees and bow your head and pull that rope until you're dead. All men river, that all men river, he must know something, but he don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along. He don't plant taters, he don't plant cotton, and them that plant them is soon forgotten. But old man River, he just keeps rolling along. You and me, we sweat and strain, bodies all aching and wracked with pain. Tote that barge and lift that bale, get a little drunk and you'll end in jail. I get weary and sick of trying. I'm tired